cambia paso, cambia el tempo, sei la danza che muove il mondo, una musica di frontiera, primavera ci porterà. L'anima del mondo vibra al tempo della musica, per la gente allegra il mio violino suonerà. Tempo c'è voluto ma ritornano le rondini, senza fare trappole l'inverno se ne va. Questo sole caldo è la rivincita degli ultimi, per la gente in pace la mia voce canterà. Cambia passo, cambia il tempo, sei la danza che muove il mondo, una musica di frontiera, primavera ci porterà. L'amore si maturano le fragole, per la gente allegra questa banda suonerà. Resta l'abitudine di credere alle favole, come il desiderio di vederti accanto a me. Passano le nuvole, si girano le pagine, per la gente in pace la mia voce canterà.